Europa 24. Buongiorno a tutti, 14:22, studio Daniele Biacchesi, Radio 24. In apertura l'appello dell'Alto Commissario ONU che esorta l'Unione Europea ad accogliere 200.000 profughi. E tutto accade nel giorno in cui in Lussemburgo si riunisce il Consiglio Esteri Informale dell'Unione Europea. A Praga si incontrano invece i leader di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacca, cioè il fronte contrario al meccanismo di ridistribuzione per le quote. In diretta qui con me Laura Bettini. Buongiorno, sì, si riunisce proprio in questi minuti a Lussemburgo il Consiglio Esteri Informale della UE e il principale argomento in discussione sarà la proposta di Italia, Francia e Germania per la revisione del sistema d'asilo, l'equa ripartizione dei rifugiati sul territorio europeo e in un secondo eventuale momento l'allestimento di una missione navale europea antiscafisti. A Bruxelles intanto la Commissione lavora a un piano che si è appena preso, e l'abbiamo anche sentito in GR24, proporrà 120.000 ricollocamenti da aggiungere ai precedenti 40.000 dei richiedenti asilo che si trovano in Italia, Grecia e anche Ungheria. Si studia la proposta di un sistema stabile per quote dal quale i paesi più refrattari possano astenersi, ma con tutta probabilità dietro il pagamento di sanzioni, e su questo punto insistono Germania e Francia. Di fatto un superamento del regolamento di Dublino, quindi. Le proposte della Commissione saranno vagliate dal Collegio dei Commissari di martedì prossimo, quindi il Presidente Juncker le presenterà ufficialmente al Parlamento europeo il giorno successivo nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i riottosi, sappiamo bene, lo dicevi anche tu, ci sono i paesi del centro-est europeo che hanno già ribadito il loro no all'accoglienza obbligata, quindi Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca. Quanto alla Gran Bretagna, il Premier Cameron oggi ha fatto un mezzo passo indietro dopo la scossa all'opinione pubblica britannica inflitta dalla morte di Aylan sulla spiaggia turca di Bodrum. Parlando a Lisbona, Cameron ha affermato che il suo paese riaprirà le porte, accoglierà migliaia di persone, ma solo tra quelle ancora nei campi profughi alle frontiere siriane. Nulla da fare quindi per chi è già in Europa. Secondo l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati dovrebbe essere approntato un programma di ricollocazione di massa per circa 200.000 persone con la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri. Ultima notizia, in visita oggi all'isola greca di Kos, dove sono sbarcati migliaia di migranti, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha detto che l'Europa non può sopravvivere aprendo indiscriminatamente le porte a tutti, così come però non potrà farlo se non darà rifugio a chi ne ha diritto. O vinciamo tutti insieme o perderemo ognuno per conto suo. È tutto. Grazie Laura Bettini. Secondo il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che è intervenuto questa mattina al forum Ambrosetti, bisogna avere il coraggio di dire che serve un nuovo approccio multilaterale accompagnato da forza, da cooperazione economica. Sentiamo Gentiloni. Io dico che dobbiamo ridiscutere le regole della Convenzione di Dublino, partendo da uno dei suoi pilastri, e cioè che si entra non in Europa ma nel paese di primo arrivo. Dico che se non ridiscutiamo le regole di Dublino, finiremo per ridiscutere di Schengen, e ridiscutendo di Schengen finiremo per ridiscutere della libertà di movimento e di circolazione delle persone nell'Unione Europea. 14:05, questo era il punto in Europa 24 del lato europeo internazionale della vicenda dell'immigrazione. Torneremo naturalmente questa sera all'interno di Effetto Notte. Vi saluta qui Daniele Biacchesi. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.